Linee d'ombra di Matteo Caccia. Da quel momento ho chiesto scusa innumerevoli volte per il mio comportamento e lui, elegantemente da signore, mi ha sempre detto che non ce n'era bisogno. Ma la volta in cui mi superai fu quando lo acchiappai e lo appesi all'appendiabiti della classe, lasciandolo appenzolare fino all'ingresso del professore. Storie di un allievo riconoscente e di un altro che non lo è, in una puntata che si intitola Scegliere i propri maestri. E Tamasco, Remo e Tommaso, tu li hai visti? Vanno a vendere l'aglio. Vanno a vendere l'aglio? Vanno alle 6, 7 mattina, attorno alle 3, 4. Dove lo vanno a vendere? A Piazza Bologna, a Trionfale. Ma tutti i giorni? Come no? Gliel'hai detto che è venuto un maestro nuovo? Sì. Non ha intenzione di venire, nessuno dei due. Guarda se c'è la mamma di Franco. Buongiorno. Buongiorno, signora. Buongiorno. C'è Franco? Ancora non c'è qua, non è arrivato. Cioè. Io sono il maestro della scuola elementare. Sì, sì, piacere. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo sapere informazioni su Franco, come mai non viene? Non ci va proprio, scuola, lui piace andare a giocare. Questo pezzo che abbiamo sentito e che ha tutto quel sapore antico che hanno il suono di questi film, questo in realtà era uno sceneggiato, si chiamava Diario di un maestro, era uno sceneggiato del 1972 scritto e diretto da Vittorio De Seta, che era tratto da un libro autobiografico che si chiamava Un anno a Pietralata. Un anno a Pietralata era un libro che era stato scritto da un giovane insegnante, si chiamava Albino Bernardini, che aveva raccontato la sua esperienza a scuola e aveva raccontato appunto in questo diario, no? Appunto, che era il diario di un maestro, da cui il titolo del libro e dello sceneggiato, raccontava la vita di questo maestro in una zona in cui, diciamo, l'ultimo dei problemi era andare a scuola, perché i bambini in quell'epoca, nemmeno così tanto indietro, un poco più di 40 anni fa, non riuscivano ad andare a scuola perché dovevano lavorare. Ve l'abbiamo fatto sentire perché la puntata di oggi di Linea d'Ombra si intitola Scegliere i propri maestri, che è un tema interessantissimo, perché la figura del maestro, al di là della figura del maestro di scuola, dell'insegnante, del professore, è una figura a cui non siamo più abituati a far riferimento. È difficile trovare oggi qualcuno che si possa definire un maestro, qualcuno a cui affidarsi senza ad esempio essere abbindolati, perché i falsi maestri sono molto facili, quelli invece da trovare, e di solito li si riconosce perché ti chiedono dei soldi e perché ti spillano dei soldi. Ecco, quelli sono di solito i cattivi maestri. I maestri non sono per forza degli insegnanti, sono semplicemente persone che in qualche modo ne sanno qualcosa più di te e in qualche modo vedono dentro di te qualcosa che tu non vedi. Credo che questo sia la figura di un maestro che si possa definire tale, e le storie che vi raccontiamo oggi parlano proprio di questo, parlano di come un insegnante di architettura, attraverso un gesto, attraverso l'esempio e attraverso poche parole, dia all'autore della nostra prima storia, Claudio, dia il senso di non solo di buona educazione e di buoni comportamenti, ma gli dia una sorta di orizzonte per la vita, gli dia la possibilità di guardare oltre. E poi avremo una storia che invece arriva da un carcere, l'ha raccolta Mauro Pescio, e siamo molto grati a Ristretti Orizzonti per averci permesso di entrare nel carcere di Padova e di raccogliere questa storia. Prima però di cominciare a raccontare, questa è una puntata molto ricca, racconteremo le storie di cui vi ho appena parlato, racconteremo la nostra storia seriale che continua, la storia di Anna Maria, racconteremo i vostri diari di quarantena, ma oggi torniamo anche a raccontare, e lo facciamo in uno dei modi che preferiamo, che è con la vostra voce, con la vostra viva voce, quelle piccole storie di cui ogni tanto stiamo costellando le nostre puntate di Linee d'Ombra, cioè quelle che abbiamo chiamato piccole storie di rinascita. In questo periodo in cui è difficile tenere il passo con la cronaca, con l'attualità, con quello che sta succedendo al di fuori fuori delle nostre case, allora noi vi teniamo compagnia, sì, con le storie che cercano di portarvi lontano dalle vostre case, ma vi chiediamo anche di fare questo piccolo sforzo, di provare a ricordare qual è stato un momento in cui, dopo che le cose sono andate molto storte, a un certo punto le cose hanno cominciato ad andare un pochettino meglio e vi siete tornati a rinascere. Vi chiediamo di farlo attraverso dei messaggi vocali, vi chiediamo di farlo attraverso dei canali che sono o il mio profilo Instagram, Matteo Caccia, o il mio profilo Facebook, oppure il profilo Facebook di Linee d'Ombra. Se andate nei messaggi diretti potete mandarci o mandarmi un messaggio vocale, dura un minuto per entrambi, sia per Instagram che per Facebook, ma potete mandarcene due o tre, insomma anche un pochettino più lunghi. In questo caso il messaggio è un messaggio di Valentina, che è preciso per questa puntata, che riguarda la scelta dei propri maestri, perché a un certo punto Valentina rinasce in una maniera molto molto evidente, quando non cambia maestro ma di fatto cambia strada, e lì capisce qual è la sua nuova opportunità. Dieci anni fa mi ritrovavo a fare qualcosa che mi ero accorta di non desiderare. Studiavo medicina e nel profondo mi ero privata del mio desiderio, che era fare l'attrice, e avevo seguito l'istinto razionale dei miei genitori e quindi avevo aderito alla loro volontà di trovarmi un lavoro sicuro, onesto e dignitoso. E ricordo quanto fossi profondamente infelice durante le mie giornate, e ricordo esattamente il momento in cui è avvenuta la mia rinascita. Ero in una casa brutta vicino all'università, nel salottino, che stavo studiando su un libro che per me trasudava tristezza. L'ho guardato e ho pensato: questa è l'ultima volta che ti guardo, e l'ho chiuso. E questo piccolo gesto di coraggio, che ha portato a tanti altri piccoli gesti di coraggio, cioè ammettere davanti ai miei genitori che avrei cambiato strada nonostante i loro desideri fossero in tutt'altra direzione, mi ha portato a essere poi davvero felice. E ho iniziato il mio percorso, mi sono diplomata come attrice in un'altra città, le case sono diventate subito più belle perché io ero più felice e quindi vedevo le cose con dei colori differenti, e la cosa strana è che anche io sono diventata oggettivamente più bella e avevo una luce tutta nuova e tutti lo hanno notato, in primis i miei genitori, che mi hanno incominciato a sostenere con grande forza. Eravamo ragazzini, 16 o 17 anni. Io alto 1,82 e grosso, 90 kg, diciamo pure grassottello, della periferia di Roma Sud. Lui, Andrea, piccolo, ma piccolo davvero. Sarà stato alto 1,55 m e leggero, 45 kg scarsi, cresciuto in un elegante quartiere di Roma Nord. All'epoca fui obbligato dalle circostanze a frequentare un liceo lontanissimo da casa, tanto che dai 13 anni, già alle 6:30 del mattino, stavo sul primo dei tre autobus che quotidianamente mi portavano nei pressi di Corso Francia, al villaggio olimpico, per il suono della campanella delle 8. In quella scuola di Roma Nord c'era un nutrito e variopinto gruppo di quelli che qui a Roma comunemente chiamiamo pariolini, che tendeva il gruppo a rimanere chiuso ed esclusivo. Il resto dei ragazzi, la maggior parte in realtà, era un grigio e anonimo sottofondo di cui io e lui facevamo parte, ma con ruoli diversi. Seppur io abbia sempre avuto un buon carattere, allegro, comunicativo, in quell'ambiente alieno e così diverso dalle mie abitudini, ero sempre inconsciamente sulla difensiva, e questo faceva emergere una parte oscura. Era piccolissimo, era uno scricciolo, si dice a Roma, era piccolo. Lui veniva dal Centro America. Era magrissimo, era bassino, era mite, sostanzialmente la sua dote, se dovessi descriverlo adesso direi basso, secco e mite, e un po' solitario, praticamente quasi una vittima perfetta se andiamo a vedere. Il mio disagio trovava sfogo nello stuzzicare Andrea, il quale era vittima sacrificale dei miei terribili scherzi. Una volta gli feci subire quella che a Roma chiamano la stira. In combutta con altri compagni, lo spogliammo completamente, ad eccezione degli indumenti intimi, mentre lo si prendeva per gli arti e lo si stirava, appunto. Un'altra volta lo presi per una caviglia e mi feci fotografare con lui che penzolava dalle mie mani come fosse un pescatore con un luccio appena slamato. E ancora una volta gli riempii lo zaino con 20 kg di argilla che usavamo come strumento di materia plastica in quanto frequentavamo il liceo artistico. Ma la volta che mi superai fu quando lo acchiappai e lo appesi all'appendiabiti della classe, lasciandola penzolare fino all'ingresso del professore di architettura che intelligentemente, forse per non enfatizzare la situazione, entrando in aula, anziché urlare, gli porse sorridendo il proprio cappello, scatenando una fragorosa risata nello stupore generale, fatto salvo però poi di aiutarlo poco dopo a scenderne. Ad ogni modo, finita la lezione, il professore ci fece rimanere in aula. Mi ammonì dal ripetere certe bravate e ci obbligò a svolgere degli esercizi che prevedevano la partecipazione di entrambi, preoccupandosi nelle settimane successive di controllare che fra noi andasse tutto bene. Il professore di architettura ci ha poi bonariamente obbligato a frequentare, diciamo, gli stessi luoghi negli stessi orari. Dovevamo fare delle ricerche su delle chiese stile romanico, stile gotico. Dovevamo andare in giro per Roma a fare fotografie e studiarne gli aspetti architettonici, e quindi siamo stati scelti noi due come partner, e questo mi ha dato modo di conoscerlo meglio e ho scoperto che era molto più grande di quanto invece non fosse fisicamente, una gran persona. Da quel momento ho chiesto scusa innumerevoli volte per il mio comportamento e lui, elegantemente da signore, mi ha sempre detto che non ce n'era bisogno. Nel tempo trascorso insieme conobbi molto meglio Andrea e il suo mondo. Mi raccontò che era stato adottato e separato da piccolissimo dalla propria sorellina, che sognava di rincontrare presto. Negli anni ho avuto modo di chiedergli scusa più e più volte circa il mio inqualificabile comportamento e ho ricevuto una grossissima lezione. Seppur in tutto quel tempo lo avessi bullizzato, lui non solo mi aveva perdonato, ma aveva capito cosa mi spingeva ad essere prepotente con lui e riuscì a scardinare quello stupido meccanismo che si muoveva dentro di me, ossia quello di proiettare sui più deboli le nostre difficoltà, cercando una popolarità totalmente effimera. Con lui, poi, finita la scuola, non ho avuto più alcun contatto. Quando negli anni successivi si organizzavano cene fra ex compagni, non ha mai partecipato, ma ho mantenuto eccellenti rapporti con quel professore che, oltre ad avermi insegnato architettura, mi ha insegnato a rispettare me stesso, in primis, e di conseguenza gli altri, insegnandomi un po' di vita. Scegliere i propri maestri, si intitola la puntata di oggi, e la storia di Claudio ci racconta di due figure. Ci racconta della figura di un amico, un compagno di classe che diventa alla lunga un amico, e poi ci racconta della figura di un insegnante che diventa di fatto un maestro che va al di là del fatto che è lì per insegnarti delle nozioni e dei concetti, ma diventa a tutti gli effetti una persona da cui imparare delle cose. Pronto, ciao Claudio, buongiorno. Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti. Claudio, grazie per averci mandato un'altra storia. Noi ci eravamo già sentiti per una storia che aveva a che fare con uno zainetto che in teoria che tu avevi recuperato e che una zia, se non ricordo male, credeva che tu avessi rubato. Dico bene? Me l'avevano sottratto, ero a Bologna, l'avevano rubato, una signora ci aveva avvertito. Ah, giusto, mi sono confuso con un'altra storia. Questo ragazzo. Giusto, c'erano due storie che riguardavano degli zainetti e dimenticati e persi e mi c'ero confuso. Perdonami. Ah, ok. Senti Claudio, tu lo diciamo poco prima fuori onda, tu sei di quelli che continuano a lavorare anche in questo periodo, giusto? Esatto, sì. Come ti senti quando vai a lavorare? Sei, come dire, non ti dispiace il fatto di poter uscire di casa perché c'è gente che pare che dopo 3 settimane non vedrà l'ora di mettere fuori il naso di casa, oppure non ti senti pienamente sicuro? No, devo dire che mi sento più sollevato, se posso uscire un pochino, ecco. Okay. Insomma, non ti dispiace? No. Non ti dispiace? Diciamo che non sono proprio in prima linea, non è che lavoro dentro gli ospedali, quindi lì sono un po' più riparato e mi consente di distrarmi quelle 8 ore al giorno, un pochettino. Certo. Senti Claudio, andiamo alla storia invece. Tu lo hai chiamato Andrea, sì. Giustamente hai cambiato il nome, è un nome di fantasia, però noi continuiamo a chiamarlo Andrea, quel tuo compagno. Che cosa ti ricordi? Sì, sì. Che cosa ti ricordi di lui, oltre a quello che ci hai raccontato? La prima sensazione che ho di questo ragazzo è di fragilità. Fragilità sia fisica che emotiva. Era, sì, devo dire che era fragile come un vaso di ceramica. Senti, non hai più contatti con lui, dico bene? No, purtroppo no, anche perché poi era molto valido, insomma, era pieno di contenuti questo ragazzo. Solo che evidentemente ha preferito tagliare i ponti con quella parte della sua vita di cui faccio parte anche io e rispetto la sua scelta, diciamo. Senti, invece parliamo di quel professore, di quell'insegnante. Lui invece... Hai ancora dei contatti, hai modo di sentirlo? Sì, lui è stato un maestro di vita, ma tutt'oggi lo è, perché ogni tanto ci si sente, ogni tanto ci si vede, non abitando distantissimo da me, lui sta vicino a San Pietro. Se capita che passo da quelle parti è sempre un piacere prendere un caffè con lui, e lui è la persona che devo veramente ringraziare in assoluto. In che modo lui ti ha cambiato il modo di vedere le cose, o una parte del modo di vedere le cose? Allora, se posso, per esempio, lui consigliò a tutti noi della classe di appendere una cartina geografica in camera, perché voleva che noi fossimo cittadini del mondo. La cartina doveva essere non politica, ma fisica, quindi diciamo, gli unici confini sono quelli mentali. E io così feci, comprai questa cartina e la misi sul muro qui a fianco al letto, e il mondo ce l'avevo sempre sott'occhio. E quella è stata una cosa che sembra stupida, invece è importantissima, perché è stato uno dei tanti insegnamenti che ci ha dato. Ma guarda, no, direi che non è per niente stupida, anzi, credo che sia un ottimo, non ci avevo mai pensato, mi sembra invece un ottimo consiglio quello di avere sott'occhio il mondo, anche solo per il fatto che, questa non era politica, tu dici, era una cartina fisica, quindi magari non. Uno non sa collocare la capitale di quello stato nel suo posto giusto, però di fatto... Sì, congiuntamente, poi magari ho comprato anche un'altra politica, ero un ragazzino di 14 anni, quindi... Non avevo ancora idea dei confini del mondo, insomma, diciamo. Perciò ho seguito il suo consiglio e poi ho adattato anche a quello mio e ho comprato un'altra politica. Guarda, mi sembra davvero un bel consiglio anche in un periodo come questo, in cui leggevo stamattina un articolo che parlava ovviamente del virus, no? Sì, insomma, il 95% dell'informazione è dedicata a quello, e raccontava come sia il virus sia il primo elemento, diciamo, degli ultimi 150 anni che non conosce confini, per cui si sta espandendo senza alcuna limitazione rispetto a frontiere o confini nazionali. Quindi magari me la compro anch'io, me la compro online adesso, una cartina geografica, e me la appendo in camera. Claudio, ti ringrazio moltissimo per averci mandato quest'altra storia, per la chiacchierata. Cerca di stare il più possibile al sicuro, in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo anche a te, in bocca al lupo, saluta Anita e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao Claudio, grazie mille. Ciao, ciao, ciao, Matteo, ciao. Ciao, uno come me, scarpe bianche come me, abitava le ringhiere a nord della città, cantava come un matto di notte e di giorno, viveva la sua estate anche d'inverno, di giorno e di notte io per campare, parlo di stelle e di donne e ho canzoni da imparare. Per Milano, sotto un cielo sempre nero, occhi chiari è un'espressione da guerriero. Con le nostre Scegliere i propri maestri si intitola la puntata di oggi e dopo la storia di Claudio torniamo tra pochissimo, dopo le borse in diretta, per continuare a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La prossima storia è una storia che arriva da un luogo più che di quarantena, un luogo di clausura direi, è un carcere e inizia così. Buongiorno a tutti, io sono Giuliano, ho 32 anni e sono condannato all'ergastolo. Oggi il tema su cui sono stato chiamato a riflettere è il consenso delle nuove generazioni verso la mafia. Io, come detenuto, credo che sia davvero molto difficile farlo, però nel mio piccolo sto cercando e mi sono attivato per farlo, anche da qui dentro. Ecco, queste che vi ho appena letto sono le parole di Giuliano, che è appunto un detenuto del carcere di Padova, che fa parte della redazione di una rivista che si chiama Ristretti Orizzonti, a cui Mauro, che è un po' un frequentatore di fatto ormai di quel carcere, come autore ovviamente e non come detenuto, Mauro ha chiesto di raccontarsi. E in una puntata che si intitola Scegliere i propri maestri, la seconda storia è la storia di Giuliano. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Come posso fare io, rinchiuso dentro a un carcere, a sensibilizzare le nuove generazioni? Prima di tutto aprendomi al dialogo e al confronto, soprattutto al confronto, che mi ha portato tanto e mi ha dato tanto. Il confronto con operatori penitenziari, con i volontari, con gli educatori, con i professori della scuola che frequento. Questo confronto, che è stato possibile fare qui in redazione, è anche quello con la società esterna che entra in carcere. Ma il cambiamento, secondo me, prima di tutto deve avvenire all'interno di noi stessi. Quando vogliamo, quando possiamo accettare che possiamo diventare delle persone migliori. Ed io in un certo senso l'ho fatto. E da quando ho scelto di intraprendere questo percorso così diverso per me, ho avuto bisogno e ho tuttora bisogno di un appoggio, di qualcuno che mi segua in tutto quello che faccio. Perché non conoscevo i limiti, quindi molte volte ho bisogno che qualcuno mi fermi e mi dica: Giuliano, questo è un limite che non puoi superare. Ma facendo un passo indietro, devo dire che quello che mi ha mosso dentro questo mio percorso verso il cambiamento è stato il mio primo incontro con il progetto Scuola Carcere di un paio di anni fa. Vedere dei miei compagni ergastolani, come me, ma con 20-30 anni di carcere sulle spalle, parlare a dei ragazzi giovani e presentare loro lo squallore di una vita passata in carcere, il vivere senza affetti, il vivere senza un briciolo di libertà. Questo mi ha fatto capire che dovevo anche io cercare di fare qualcosa per i ragazzi, perché non volevo assolutamente sapere né vedere un altro giovane come me in carcere, a buttare giorni su giorni, anni su anni, dentro a delle celle. Io ho un percorso molto travagliato, un percorso che mi ha portato a conoscere i reati, la delinquenza già all'età di 13 anni, 14. Fino ai 18 e anche oltre, io mi sono, diciamo, specializzato in reati di ogni genere. Quindi sin da subito ho capito che dovevo fare qualcosa anche io per quei ragazzi, anche se forse difficilmente qui al nord avrebbero capito di cosa parliamo, quando diciamo che in certi posti del sud i ragazzi che non vanno a scuola non lo fanno e basta, e non c'è nessuno che vada a prenderli a casa. Comunque vada, vado via, in questa notte taglio col coltello il buio tutto intorno, tanto so che quando torna il giorno sarà solo il ricordo di qualcosa che avrei avuto ed ho perso. Dovunque vado sono via e chiedo alle mie mani di fermare il battito del cuore, perché il mio cervello non sopporta più il rumore che mi porta indietro al tempo in cui le ore mi passavano leggere e mi ripeto. Fra due punti diversissimi ed opposti, fra di loro disperati come missili sparati verso cieli lontanissimi, al di là delle galassie dentro un buco nero. ci sono strade che somigliano alle vite che percorri tutto in un momento. Non sai capire dove sei arrivato, ma sei sicuro che ora stai correndo. Voglio raccontarvi la mia storia, la storia di un ragazzo ribelle, un ragazzo che non conosceva regole, non conosceva limiti e non riconosceva nessuna istituzione, dai professori ai poliziotti. Ho capito che la vita è fatta di bivi e ho riflettuto su quale fosse stato il mio bivio. Ho pensato che magari è stato quel giorno di 16 anni fa, quando, iniziate le scuole superiori, ho deciso di scagliarmi verso la professoressa che era lì per insegnarmi, per aiutarmi a non diventare quello che poi inevitabilmente sono diventato, cioè un criminale. In diverse occasioni ho sentito parlare di apertura mentale ed ogni volta che sentivo questo termine io dicevo: ma com'è possibile che io a 28 anni, 29, abbia una mente così chiusa, così limitata? Non capivo le parole, non capivo le espressioni. Faccio fatica tuttora a capire le persone quando mi parlano con termini che io non conosco. Quindi ho pensato che l'unico modo per iniziare a cambiarmi era aprirmi nei confronti di tutto quello che il carcere mi offriva: conoscenza, cultura, attività, qualsiasi cosa che mi potesse aiutare ad arricchirmi e a migliorare come persona. Ma il carcere, come sappiamo tutti, non è un'isola felice. Sentirsi lontano dal resto del mondo è già di per sé straziante e un'apertura verso la società, secondo me, non potrebbe che portare del bene sia ai detenuti ma anche alla società stessa, che si ritroverebbe delle persone migliori una volta scontata la pena. È fondamentale che la pena diventi qualcosa di utile alla società perché, lo dicono le statistiche, il risultato di anni e anni di repressione ce l'abbiamo davanti agli occhi. E cioè il 70% di recidiva, il 70%. E in tutto questo si colloca anche il futuro di quei giovani rampolli del crimine che, come me, erano contenti di guadagnare un'auto di lusso in una settimana, ma non sapevano, non conoscevano quello che li aspettava dopo, cioè tutta la sofferenza, l'assenza dei familiari, l'assenza di un'apertura mentale che rovina la vita. Ecco, noi abbiamo bisogno di essere accuditi, accompagnati verso una società che ci può sicuramente accogliere in modo diverso. These were falling just like embers in colors red and gold, they set us on fire, burning just like a moonbeam in our eyes. Somebody said they saw somebody said they saw Questa storia l'ha raccolta Mauro Pescio nel carcere di Padova. Ringraziamo Ristretti Orizzonti per permetterci di raccontarla. Ringraziamo soprattutto Giuliano, che ha 32 anni, è un ergastolano e ha voluto raccontarci la sua esperienza. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare qui i vostri diari di quarantena. Quante volte, ascoltando le nostre storie, ti è capitato di pensare: anche io ho vissuto una cosa simile, anche io ho una storia da raccontare? Ecco, se ti è successo, hai una sola possibilità. Fallo. Non aspettare. Torna a casa, apri il tuo computer e scrivi la tua storia. Un episodio circoscritto e preciso. Un pezzo della tua vita che per te significa qualcosa di importante. Una storia che racconti un momento di passaggio, un confine tra chiaro e scuro, tra luci e ombre. Quando ti sei innamorato. Quando hai scelto di cambiare le cose. Quando da ragazzo un avvenimento anche piccolo ti ha segnato per sempre. Piccoli confini. Sottili linee d'ombra che hai varcato. Scrivilo e spediscilo a lineedombra@radio24.it. Il tuo racconto diventa il cuore delle nostre storie. Linee d'ombra. Continuiamo a raccontare i vostri diari, i diari di questo momento così complicato, così diverso da tutti gli altri che abbiamo vissuto nella vostra vita, i vostri diari di quarantena. Vi abbiamo chiesto di raccontarci, se avete voglia, in una pagina o due, come state vivendo questo periodo, se siete a casa, se siete costretti ad andare a lavorare, invece, quindi come è cambiata la vostra routine, come è cambiato il vostro rapporto con le persone, se siete in casa da soli, se siete in coppia, se siete in famiglia, se siete con dei coinquilini, magari siete rimasti bloccati nella città che non è la vostra città, è la città in cui lavorate e vivete con delle altre persone che non sono propriamente degli amici, e immagino che possa essere molto molto molto complesso. La prossima storia è una storia che ci ha mandato Michele, che comincia dicendo: sono in quarantena per un presunto contatto, e sentiamo che cosa ci racconta. Ciao Matteo, sono Michele da Recanati. L'abbiamo capito, è un periodo difficile. Mi sono messo in quarantena per un presunto contatto che per ora non ha avuto conseguenze. La prima cosa che mi è venuta in mente, più che altro, l'ho sentita sulla pelle. È stata la visione di ciò che ricordo del periodo vissuto conseguentemente all'incidente nucleare di Chernobyl. Da quando si è iniziato a parlare di contagio, la mia mente sta facendo questo parallelismo, questa similitudine tra due nemici invisibili di cui tutto il mondo ha paura e che speriamo che passino con minori conseguenze possibili. Sono un operaio e anche volendo non potrei lavorare da casa. È strano, ma vorrei andarci. Il mio isolamento comunque è organizzato bene e tra la puntuale telefonata giornaliera dei miei genitori, per sapere come va, mi sono organizzato, addirittura costruendo una specie di cavalletto per poter pedalare in casa. La risposta ai miei è sempre la stessa. Tutto bene, niente di che. Anche le loro domande sono sempre le stesse. Hai da mangiare? Stai mangiando? È così fin dal primo giorno, quando avevo appena fatto spesa senza sapere che non sarei più uscito. Cerco di rispondere loro con calma, anche se loro sembrano non ascoltarmi. Hanno la stessa frenesia nel preoccuparsi di un cane, che anche se sei uscito da 20 secondi, non avendo la cognizione del tempo, ti salta addosso neanche fosse Argo che ha aspettato Ulisse. Allora ho pensato di rispondere utilizzando alcune persone di un mio mito personale, Walter Bonatti, che in risposta ad un giornalista che gli chiedeva come avrebbe fatto senza mangiare appeso in parete per due giorni, disse che non sarebbe certo morto di fame per una volta senza cena. Comunque il tempo passa e il cibo si consuma veramente. Prima ho fatto la premessa che avevo buone intenzioni pedalando dentro casa. Oggi ho ceduto e la golosità ha preso campo. Ho ceduto alla tentazione e ho infornato dei biscotti. Speriamo bene. Per fortuna non ho la bilancia pesa persone. Purtroppo ho quella per gli ingredienti, però. Grazie. Ciao a tutti. Michele. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera e sera. Chissà il polpaci poveretta fino a sera e sera. Chissà che piedi gonfi avrai, Rosalina, Rosalina. A me piaci grassottina, ma quando è sera e sera ti sento masticare. Quando è sera ti ammazzi con i pinne. Amore mio, ti voglio bene come sei. Sei eccitante al punto che ti sposerei. 90 chili di libidine e bontà. E poi vedrai che un po' di moto t'aiuterà.

visto che ho affrontato tutto sempre in modo scientifico per fare sempre, per essere sempre migliore, non posso non provarci. Chiudiamo qui anche questa puntata, chiudiamo qui anche questa settimana di Linee d'Ombra. Io vi ringrazio per averci ascoltato, io ringrazio le persone che continuano, nonostante le difficoltà e remotamente, ognuno dalla propria postazione casalinga e o al lavoro in radio quando è obbligato a venire, le persone che continuano a permetterci di andare in onda con questo programma, che sono Paolino Corleoni di là dal vetro, Anita Panizza che orchestra tutto quanto il programma e poi Mauro Pescio e Luca Micheli che sceglie le musiche perché questo programma abbia un bellissimo suono. E noi vi ringraziamo soprattutto per le storie che continuate a mandarci. Linee d'ombra @radio24.it. Prendetevi il fine settimana, anche se ormai un po' tutti i giorni sembrano fine settimana, come insomma prendetevi del tempo per raccontarci la vostra storia o per mandarvi il vostro diario di quarantena. Noi lo prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. Ora la linea al GR, noi torniamo lunedì per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!